Euroreportage. Covid-19, anche in Europa, un pericolo per la democrazia. Di Gigi Donelli e Sophie Petitjean. Prima di tutto la salute. Come non essere d'accordo in questo tempo di pandemia? Poi diciamo il lavoro, visto che tutti siamo preoccupati delle conseguenze economiche. Poi però va trovato spazio per qualcosa di meno facile da misurare, ma che non è meno importante. Parlo della qualità democratica del nostro vivere quotidiano. Chiamiamola libertà, se volete, una cosa che, come l'aria, ma anche come la salute ovviamente, si misura per difetto, in assenza. Un bene assoluto che qui in Italia molti tra noi, anche non proprio giovanissimi, hanno avuto la fortuna di avere sempre, per tutta la vita. Ma perché poi la pandemia dovrebbe mettere potenzialmente a rischio i nostri diritti? Margherita Silva, dell'Osservatorio Europeo delle Società, è convinta che il rischio sia già diventato una realtà. Stiamo notando come questa crisi possa anche dare a chi voglia farlo la possibilità di attaccare o indebolire la democrazia, e questa è una minaccia davvero grossa. Per molti analisti, l'Ungheria di Viktor Orban rappresenta oggi il caso esemplare di questa minaccia. Il primo ministro in carica a Budapest dal 2010 ha da tempo teorizzato la necessità di superare la democrazia rappresentativa, costruendo un regime di democrazia illiberale. Nel corso di ben tre legislature Orban ha costruito il suo sistema, con una serie di provvedimenti sulla legge elettorale, sulla limitazione delle libertà di stampa, sul controllo della magistratura, e ha ridisegnato la classica divisione dei poteri delle democrazie parlamentari, sempre restando all'interno del rispetto formale delle leggi, sempre con la ratifica da parte del Parlamento delle sue decisioni. Budapest ha dichiarato lo stato d'emergenza l'11 marzo scorso e lo ha prolungato il 30 marzo senza termine finale. Questo permette al governo di agire per decreto e con un controllo istituzionale ridotto al minimo. Tra le misure del governo spicca quella cosiddetta contro le fake news, ora punibili con pene fino a 5 anni. Valutare se sono davvero fake o meno spetta al tribunale. Per Julie Majersak, capo dell'ufficio di Bruxelles di Reporters Sans Frontières, si tratta di una chiara minaccia all'indipendenza della stampa. Noi, Reporters senza frontiere, temiamo che questa legge possa essere usata principalmente per silenziare media indipendenti e senza peli sulla lingua, e che sono già stati indeboliti da tempo dagli attacchi di Orban. E qui, con il pretesto della lotta alla pandemia, Orban sta mettendo in atto un regime di censura severa, in cui è lui a decidere cosa è vero e cosa è falso, e questo è estremamente pericoloso. Ce qui va être vrai ou faux. Et ça, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Ma non dobbiamo pensare che l'Ungheria sia una situazione del tutto eccezionale, piuttosto un'avanguardia di una situazione che in molti paesi europei è per alcuni una vera e propria tentazione. Il modello non dichiarato di riferimento è la Russia, una democrazia limitata dallo strettissimo controllo dell'esecutivo, dove il presidente della federazione governa da 20 anni, dove il Parlamento è dominato dal partito del presidente, dove la stampa vive una costante battaglia per definire il perimetro della sua indipendenza. In Polonia, intanto, le presidenziali del 10 maggio prossimo sono state confermate. Il presidente uscente ed esponente di Diritto e Giustizia, Andrzej Duda, tenterà di essere eletto per un secondo mandato. Come sempre accade negli ultimi anni, si troverà di fronte la candidata dell'opposizione, sostenuta da Piattaforma Civica. In ogni caso, causa coronavirus, l'esecutivo ha intanto imposto il voto postale e la sospensione della campagna elettorale, che avverrà dunque solo ed esclusivamente attraverso i media. La salute, anche in questo caso, davanti a tutto, un principio difficilmente discutibile, che però può aprire il campo a decisioni sproporzionate, dal diritto a multare persone fuori casa senza una buona ragione, alla sospensione temporanea delle procedure giudiziarie, all'estensione del lavoro oltre i limiti di legge. Le implicazioni sono molte e diverse. In Danimarca, prima che il Parlamento intervenisse per impedirlo, alle forze di polizia era stato riconosciuto il diritto ad entrare in case private senza permesso dell'autorità giudiziaria in caso di sospetto focolaio pandemico. Jeremy Shapiro, direttore di ricerca allo European Council on Foreign Relations, un think tank paneuropeo inaugurato nell'ottobre del 2007, allarga la questione ben oltre i soliti sospetti. Penso che non sia sbagliato dire che paesi con tendenze autoritarie, che cioè avevano già leader autoritari assetati di potere, useranno questa crisi per confermare quell'atteggiamento. Ma penso anche che sarebbe un errore perdere di vista il punto anche in un paese come la Francia. Voglio dire, la quantità di potere raggiunta dai governi francese e statunitense per effetto della crisi è senza precedenti. Per l'eurodeputato verde tedesco Patrick Breyer, spesso gli effetti di queste decisioni innescate dalle emergenze non sono immediatamente comprensibili da tutti, ma hanno un forte peso specifico. La questione dei diritti fondamentali è che spesso non si vede chiaramente perché essi esistano e perché siano importanti. Spesso questi diritti proteggono minoranze, attivisti, informatori. Tutte queste persone sono molto importanti nella nostra società, ma le restrizioni imposte alle loro vite potrebbero non riguardarci in maniera diretta. Una preoccupazione che la stessa presidente von der Leyen ha fatto proprio quando nei primi giorni di aprile ha detto che capisco che gli stati membri abbiano necessità di prendere misure di emergenza per fronteggiare l'immediata crisi sanitaria, ma mi preoccupa il fatto che alcune misure possano spingersi troppo in là. Queste misure di emergenza devono essere limitate a ciò che è necessario, essere proporzionate e adeguate alla situazione. Non dovrebbero avere efficacia per un tempo indefinito e, cosa molto importante, dovrebbero essere sottoposte a verifiche periodiche e regolari. Misure adeguate e temporanee, dunque, ma quanto temporanee di fronte ad un'emergenza dai confini temporali incerti? Sentiamo ancora Jeremy Shapiro. La storia mostra come i governi non si privino facilmente di questi poteri, anche in democrazie ben consolidate. Non penso che qualcuno stia dicendo che ciò che i governi stanno facendo ora non sia importante per risolvere la crisi. Ma quello che sappiamo da crisi del passato è che queste misure tendono a persistere ed è molto difficile interromperle. Effetti che persistono. Un esempio chiaro per tutti è quello dell'11 settembre, delle misure antiterrorismo che hanno spinto in primo luogo gli Stati Uniti a bypassare alcuni propri principi ben radicati. La corona crisis, come già viene chiamata, potrebbe avere conseguenze per certi versi molto simili. Credo che i governi, soprattutto quelli che sono fortemente criticati per non aver agito con sufficiente vigore all'inizio della crisi, diranno: in realtà la crisi non è passata. Ora abbiamo davanti un'enorme crisi finanziaria che richiede un rafforzamento del potere nazionale, con sospensione persino delle libertà fondamentali. Ecco perché credo che la questione principale nelle emergenze non è mai l'inizio, ma la fine. Quando la crisi finisce e, semmai, finisce sul serio. Restare vigili, dunque, è un dovere, non solo per la stampa o per le associazioni dei diritti civili, ma per l'intera opinione pubblica. Perché se è vero che la salute va protetta prima di tutto, è giusto anche proteggere quelle regole democratiche che fanno parte del DNA europeo. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.